Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Puoi fuggire dalla crisi, lo gridi alla luna. Oramai sogni da mesi, a Londra farò fortuna. Benvenuto a bordo, sei uno di noi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Riparte oggi il nostro programma nella prima puntata 2015-2016 e lo facciamo a braccia aperte, come recita l'hashtag che inaugura questa nuova stagione. Hashtag copyright dell'associazione Benvenuto a Bordo, associazione di volontari che a Londra aiuta gli italiani neoemigrati a trovare una prima accoglienza. Quello che avete appena ascoltato è il video YouTube con il quale promuovono l'iniziativa e nuova stagione, novità importanti anche per noi. Ve le anticipiamo subito, in primis la nuova rubrica mensile sui controesodati, nella quale vi racconteremo le storie di chi in Italia è tornato per scommettere sul paese, e l'altrettanto nuovissima rubrica L'ideogramma, attraverso la quale proveremo a capire le opportunità e i rischi di un espatrio in Cina. Entrambe prenderanno il via nelle prossime settimane. La frase della settimana, la prima della stagione, è copyright del governatore di Banca Italia Ignazio Visco. L'investimento in conoscenza è quello a più alto rendimento, ma nel lungo periodo il risultato è il paradosso italiano della bassa differenza retributiva tra laureati e diplomati. Quando qualcosa scarseggia, osserva Visco, il rendimento è alto. Invece questo da noi non avviene. Chi deve investire su di sé in conoscenza, di conseguenza non investe perché sa che sarà pagato poco. Ci sono però anche buone notizie che ci fanno riflettere. I giovani italiani non sono poi così inattivi e non si rassegnano a restare disoccupati. L'81% dei giovani che nel 2008 aveva un lavoro e l'ha perso si è inserito in processi di formazione nell'arco di un solo anno. E quanto emerge da uno studio Svimez, negli anni di crisi 2008-2010 prosegue lo studio, il divario nord-sud della disoccupazione giovanile under 30 si è triplicato, però mentre i disoccupati laureati sono cresciuti, fate attenzione, di più al centro-nord rispetto al sud. Sono giovani così, creativi e pieni di iniziativa, che quando emigrano si fanno onore e tengono alto nel mondo il tricolore. Bisogna chiaramente dare fiducia ai giovani che operano nel campo imprenditoriale. I rischi sono grossi, in inglese si dice high risk, high reward, quindi i rischi sono grossi ma anche le ricompense, e questo è il mondo delle startup. Alberto Pepe, 36 anni, è uno start-upper, nato però ricercatore negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Riparte l'offensiva per attrarre e riportare in Italia i migliori cervelli attualmente all'estero. 5 anni dopo controesodo, il Parlamento torna a puntare su strumenti di riattrazione dei talenti. A luglio è arrivata la norma che permette ai lavoratori con qualifiche elevate che si trasferiranno nella penisola dopo 5 anni oltre confine di poter beneficiare di un bonus fiscale del 30% sul reddito imponibile per un intero quinquennio. La norma per certi aspetti si sovrappone, ma differisce anche sostanzialmente dalla stessa controesodo, sollevando così qualche critica. Nelle prossime settimane torneremo sul tema portandovi altri punti di vista. In ogni caso, al momento sono ben 2 gli strumenti utilizzabili per rientrare a casa con un bonus. A Giovani Talenti il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba spiega così la nuova norma per il rientro dei talenti. Sentiamo. Questa norma è operativa perché ha avuto l'ultimo esame del Consiglio dei Ministri e di fatto consente a coloro che hanno risieduto per almeno 5 anni all'estero e che decidono di rientrare di avere un beneficio fiscale, uno sconto sul reddito imponibile del 30% per una durata di 5 anni, cioè dunque persone che non vogliono, come dire, non è un rientro a spot, ma un rientro per reinvestire professionalmente o imprenditorialmente nel nostro paese. Quindi se io ora sono all'estero e decido domani di tornare in Italia, per me questa norma già si applica di fatto? Sì, se ho risieduto per almeno 5 anni all'estero. Questa norma è definitiva nel senso che è stata inserita in un decreto che aveva, diciamo, come tema generale la concorrenza e l'internazionalizzazione delle imprese. Insomma, è il tentativo di rendere meno squilibrata la bilancia del capitale umano che va o che viene in Italia. L'Italia investe molto anche in istruzione superiore universitaria e poi i benefici di questo investimento, che vale per una persona intorno ai 125.000 euro, vengono goduti in un altro paese. Questa legge tiene conto di questa problematica e vuole, diciamo, facilitare il rientro per un reinvestimento di capitale umano qualificato. Anche la Francia si muove per attrarre cervelli. Tra le misure, il cosiddetto passaporto dei talenti, che attribuisce un permesso di soggiorno speciale di 4 anni agli immigrati qualificati con competenze particolari in materia artistica, scientifica o sportiva. Facciamo ora un rapido punto su Garanzia Giovani, verso quota 500.000 i giovani presi in carico dal programma, oltre quota 150.000 quelli avviati ad almeno una misura prevista dal piano. Intanto la disoccupazione giovanile a luglio è scesa del 40,5%, miglior risultato da 2 anni. E secondo le anticipazioni del rapporto IDOS 2015, il numero degli italiani residenti all'estero è in aumento. Nel 2014 è cresciuto di più rispetto a quello degli immigrati regolarmente presenti in Italia. Non succedeva dagli anni 90. Lo scorso anno sono stati registrati 154.000 italiani residenti all'estero in più, mentre i nuovi immigrati sono stati 92.000. Alla scadenza dei termini del bando 2015 sono stati 1.485 progetti presentati per la nuova edizione di Torno Subito, progetto della Regione Lazio che finanzia percorsi di formazione o work experience in Italia e all'estero per studenti o laureati tra i 18 e i 35 anni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti, la prima della stagione 2015-2016, ci porta negli Stati Uniti. L'abbiamo scelta con cura perché è una di quelle storie che potremmo decisamente definire out of the box. La storia di un ricercatore che oltre oceano trova l'humus necessario a trasformarsi in start-upper. Nome: Alberto. Cognome: Pepe. Età: 36 anni. Città di origine: Manduria, in Puglia. Studi: laurea e master in astrofisica, dottorato in scienza dell'informazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 1999. Per andare dove? A Londra. Perché? Per gli studi universitari. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditore, sono il CEO di una startup. Dove? New York, negli Stati Uniti. Tornerai? Certamente. Cambiando il modo in cui si fa la scienza, un articolo per volta, così declami soddisfatto al termine della lettera che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Alberto, la tua storia che ora andremo a raccontare è un inno al coraggio e alla capacità di adattamento così tipicamente italiana, anche se a volte forse ce ne scordiamo. Da ricercatore a startup, negli Stati Uniti è più facile ripartire da zero e ricominciare? Questa è una domanda un po' difficile perché io sono partito e poi ripartito sempre dall'estero, ma per quello che ne so forse sì. Gli Stati Uniti offrono molta mobilità per quanto riguarda la carriera professionale, quindi forse sì, è un po' più facile reinventarsi e ricominciare da qui. Le tue origini sono pugliesi al 100%, dopo le scuole superiori indeciso se studiare lingue o astrofisica, trovi una soluzione geniale, ti trasferisci a Londra così impari l'inglese e allo stesso tempo ti iscrivi a un corso di laurea in astrofisica. Primo problema, pagarsi gli studi in una delle città più care d'Europa. Come hai fatto? Anche se i miei genitori mi aiutavano per quello che potevano, ho comunque fatto subito domanda per delle borse di studio. Sono stato fortunato perché le ho ricevute, ogni anno ricevevo dei fondi dal governo inglese e ho anche poi subito cercato dei lavori part-time. Che voto dai alla qualità della formazione anglosassone? Parliamo sempre di università italiane. Tu invece hai studiato in Inghilterra, sei soddisfatto? Sono di certo soddisfatto di aver studiato in Inghilterra. Ho avuto professori davvero interessanti e anche attivissimi sul campo della ricerca. Chiaramente mi viene un po' difficile fare un vero paragone con la formazione italiana, siccome io ho concluso l'intero corso universitario all'estero. Torni poi in Italia, perché? Torni in Italia perché ho avuto un'offerta di lavoro al Cineca e anche perché in un certo senso quando ero a Londra avevo un po' il rimpianto di non aver fatto un'esperienza universitaria in una città italiana. Io vengo da un piccolo paesino, quindi non ho mai vissuto in una vera e propria città italiana, quindi ho deciso di tornare anche perché ero aperto a quest'idea di vivere in una grossa città in Italia. Molti ricercatori dall'Italia scappano, tu invece hai fatto il percorso contrario. Come ti sei trovato a lavorare nella ricerca in Italia? Mi sono trovato bene. Il Cineca è un consorzio interuniversitario, è un posto diciamo di eccellenza, è un posto dove si fa comunque tantissima ricerca ad alto livello. Poi io comunque ho una preparazione in astrofisica con un master in informatica e la posizione che richiedevano al Cineca era esattamente sulla visualizzazione di dati in campo di astrofisica, quindi diciamo che era una posizione perfetta per quello che volevo fare io. Dopo appena qualche mese ho vinto una borsa europea per giovani ricercatori con base al laboratorio di fisica ad alte energie CERN di Ginevra, dove ho lavorato per 2 anni. Quello che per molti è un punto di arrivo non lo è stato per te, che invece hai optato per cambiare nuovamente. Quale ricordo ti ha lasciato l'esperienza al CERN? Diciamo che al CERN sono diventato un vero e proprio ricercatore perché ho cominciato a collaborare fin da subito a grossi progetti di ricerca, a scrivere articoli, a conoscere il mondo del publishing, dell'editoria scientifica e anche a viaggiare tanto per conferenze, per convegni accademici. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alberto Pepe, 36enne startupper negli Stati Uniti, una passione per la ricerca che sfocia nell'imprenditoria, la sua al culmine di una carriera che lo ha portato in giro per il mondo tra Europa e America. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Dopo domani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti. E a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Mentre ero al CERN ho fatto domanda per un dottorato in Information Science e sono riuscito a entrare alla UCLA di Los Angeles, California. Un'avventura professionale che ti occuperà i successivi 5 anni. Che ambiente hai trovato sul Pacifico? Quanto diverso in termini di impostazione e per modalità di lavoro rispetto all'Europa? Beh, io avevo visitato gli Stati Uniti varie volte e avevo sempre sognato di fare un dottorato qui, ma la California non la conoscevo affatto e tantomeno Los Angeles. In realtà me ne avevano parlato tutti male, tutti i miei amici. E poi invece me ne sono innamorato, io vivevo a Los Angeles vicino al mare, il tempo era bello, il modo di vivere è anche molto rilassato. Però credo che a Los Angeles si lavori tanto, insomma si riesce a produrre tanto, ma con uno standard di vita molto più alto rispetto a quello di altre città americane, quindi sono stato benissimo. Los Angeles ha un carattere davvero unico. Dopodiché ti trasferisci nuovamente, questa volta ad Harvard, Boston, dove approdi come ricercatore postdoc ed è a quel punto che all'apice della tua carriera scientifica, in una posizione che qualsiasi tuo collega europeo ti invidierebbe, decidi di abbandonare la ricerca e tutto nasce da una semplice considerazione figlia del tuo lavoro da ricercatore. Qual era il problema con cui finivi per scontrarti sempre più spesso? Il problema della collaborazione. Quando sono arrivato ad Harvard ho cominciato a scrivere sempre più articoli con sempre più collaboratori e mi sono accorto che scambiarsi un file di testo, più i dati di ricerca, le immagini, le referenze bibliografiche via email non era il modo più efficace e veloce per scrivere dei testi, dei saggi scientifici. Da un problema quindi alla soluzione, qual è stata poi nello specifico? La soluzione consiste in un'idea piuttosto semplice ed è quella di portare il processo di scrittura scientifica online, sul web. In questo modo sfruttare la natura diffusa, distribuita e collaborativa del web. E poi allo stesso tempo, siccome il web diventa un po' la tela su quale i testi vengono scritti, permettiamo agli autori di spingersi al di là del semplice testo e immagini. E infatti gli autori possono integrare dati, equazioni, tabelle, grafici multimediali all'interno dei propri articoli. Dalla ricerca diciamo all'imprenditoria, perché nasce in questo modo Autorea.com, piattaforma innovativa di scrittura collaborativa per scienziati e ricercatori che fondi insieme al socio Nathan Jenkins. Quanto è stato facile o difficile iniziare oltreoceano? L'America, ti chiedo, è l'ecosistema ideale dove far nascere una startup? Iniziare è stato difficile, non tanto perché ero oltreoceano o lontano da casa, è stato difficile perché io del mondo imprenditoriale sapevo molto poco e ho dovuto imparare un po' tutto da solo. Ho cominciato a seguire dei corsi ad Harvard serali e poi quando credevo insomma di aver imparato abbastanza ho mollato il postdoc e mi sono riproposto come imprenditore. E questo è avvenuto nel gennaio del 2014, salto rischioso ma necessario, rifletti a posteriori. Ad oggi cos'è Autorea in termini di iscritti, pubblicazioni, dipendenti? Oggi Autorea conta 65.000 iscritti, si tratta di ricercatori, dottorandi, postdoc, professori, ma ci sono anche studenti universitari. La maggior parte di questi utenti viene da discipline prettamente scientifiche come fisica, astronomia, informatica, scienze naturali. Ci sono circa 800 articoli che sono stati scritti in maniera collaborativa su Autorea e in quanto dipendenti siamo 6 dipendenti. E allora ti chiedo, hai mai pensato a un ritorno professionale in Italia, magari proprio come imprenditore? Vedi l'Italia come un ecosistema potenzialmente attrattivo ora? Ci penso spesso a tornare in Italia, non solo in Italia ma anche in Europa. Non so onestamente se ci tornerò un imprenditore, forse sì, ma forse si tratterebbe di un progetto imprenditoriale un po' più piccolo, magari legato al territorio e all'agricoltura. La domanda è conseguenziale ed è la nostra domanda di rito. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Da un punto di vista accademico e scientifico, per quanto se ne dica, io vedo l'Italia abbastanza bene. Fin dai tempi di Galileo l'Italia ha prodotto tantissima ricerca di altissima qualità. Poi da un punto di vista tecnico e imprenditoriale, che è ora il mio campo, ho avuto modo di incontrare tantissimi imprenditori, programmatori di spicco, con grandi idee, gente che sa creare delle vere start-up nel campo tech. Quindi secondo me le menti e le idee ci sono, quello che manca, la proposta che vorrei fare è di spingere un po' di più verso il rischio per la circolazione dei capitali e bisogna chiaramente dare fiducia ai giovani che operano nel campo imprenditoriale I rischi sono grossi, in inglese si dice high risk, high reward, quindi i rischi sono grossi ma anche le ricompense, e questo è il mondo delle startup. Rischio è una delle parole magiche, parole chiave di oggi. Ci raggiungono in linea Alessandro Piolla, partner e cofondatore di Alpha Prime Ventures. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, non finiamo mai di stupirci del numero e della qualità dei giovani startup italiani di talento negli Stati Uniti. Tu, Alessandro, in Autoria hai investito. Al di là del progetto, cosa ti ha convinto dell'idea di Alberto e della storia anche che c'è dietro? Quando si investe in società di questo tipo, questa è una società di early stage come Autoria, si cercano imprenditori che conoscano bene il proprio campo. Alberto è un ricercatore che ha vissuto lui stesso il problema che sta cercando di risolvere, queste sono situazioni che cerchiamo. Allora Alessandro, il tuo curriculum è un libro aperto sugli ultimi decenni di innovazione made in USA, la tua stessa storia familiare con tuo padre El Serino, fondatore del venture capital italiano, è un marchio di fabbrica. In breve, anche per far capire a chi ci ascolta quanto sia serio e pesante economicamente il settore in cui operi, ci racconti cosa fai giorno dopo giorno? Incontro moltissime società che vogliono partire, che stanno cercando capitale. È un filtro abbastanza, un'asticella abbastanza alta da passare, perciò bisogna trovare le società che ci piacciono, che hanno imprenditori giusti, che hanno l'idea giusta, che stanno andando sul mercato giusto. Poi l'altra parte è quella di passare il tempo e lavorare con le aziende in cui abbiamo investito, perché parte di quello che facciamo è anche aiutare queste aziende a crescere. C'è anche una terza parte che succede ogni 2-3 anni, che è quella del fundraising, cioè del capitale che utilizziamo per investire, e anche noi adesso siamo in fase di raccolta di un nuovo fondo. Alessandro, quando parliamo di venture capital non possiamo non guardare con un po' di preoccupazione al paradosso italiano, paese dal grande fermento nel mondo delle startup oggi, poco accompagnato però da un'analoga crescita del concime base necessario a far decollare questo ecosistema, il capitale di ventura. È un problema di sistema economico, di mentalità, di economia ancora troppo relazionale, o di cosa a tuo parere? E come risolverlo? Ma guarda, è un problema che penso abbia molti aspetti. Da un certo punto di vista il capitale, diciamo, di base, di early stage, quello che chiamano qua angel investments, cioè gli investitori angeli, no? Ci sono abbastanza angel investors in Italia per far partire tante aziende. Il talento senz'altro c'è pure, perché ci sono persone del calibro di Alberto, per esempio, o anche molti altri giovani che escono dall'università, che sono ben preparati, che sanno, che conoscono bene la tecnologia, che sanno cosa fare, no? Quello che manca forse è un po' la parte del business. Poi bisogna anche pensare un attimo alla cultura del successo e del fallimento, no? Che vuol dire che in Italia c'è questa brutta tendenza di voler sempre criticare quelli che hanno successo, no? Invece di celebrare quelli che hanno successo, perché bisogna avere anche i role models, gli esempi che la gente può seguire di imprenditori che hanno fatto bene, e cercare di imitarli invece di criticarli. E questa è una cosa che a me personalmente dà molto fastidio e che secondo me è un impedimento alla crescita. Grazie ad Alessandro Piol. E domanda di rito per Alberto Pepe: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il consiglio è forse di vedere l'uscita, l'immigrazione dall'Italia non come una cosa che una volta che si va via vuol dire andare via per sempre. Credo che forse dovrebbe guardare all'immigrazione come un processo un po' più fluido, con gente che va, gente che viene. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere meccanico ed elettrico per British Petroleum a Milton Keynes in Gran Bretagna, scadenza per i CV 26 settembre, info su careers.bpglobal.com. Un assistente alla comunicazione per il programma Interreg 4C a Lille in Francia, scadenza per i CV domani, info su interreg4c.eu. E infine una posizione postdoc in microbiologia molecolare all'Università di Copenaghen, da Danimarca, scadenza per CV 1 dicembre, info su employment.q.dk. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Restiamo in America del Nord, ma dagli Stati Uniti ci spostiamo in Canada per raccontarvi le opportunità che questo paese può offrire a chi cerca sbocchi professionali oltreoceano. Lo facciamo prendendo spunto da un libro di recente pubblicazione e intervistando la sua autrice, Nicole Cascione. Il volume si chiama Vado a vivere in Canada, guida pratica per chi sogna di trasferirsi nel Nord America. Il Canada è un paese che ha comunque un mercato del lavoro molto soggetto attivo, molto dinamico e soprattutto in ottima salute, quindi comunque offre delle possibilità lavorative sicuramente migliori rispetto, diciamo, ad altri paesi esteri. E, diciamo, tra gli aspetti magari un po' negativi c'è senza dubbio il clima, che è sempre molto rigido anche in estate, dove comunque le temperature sono veramente molto basse. Però se non spaventa il freddo, non spaventa, diciamo, il cattivo tempo, diciamo, il Canada comunque può offrire tante possibilità, specialmente da un punto di vista prevalentemente lavorativo. Sì, quali settori in particolare? Ce ne sono tanti, però fondamentalmente per un italiano che si trasferisce all'estero sarebbe comunque molto, diciamo, fertile investire comunque i propri risparmi per creare comunque qualcosa di nuovo all'interno del territorio. Quindi il tuo consiglio è quello di andare a fare impresa fondamentalmente? Sì, fondamentalmente sì. Per maggiori informazioni Vado a vivere in Canada di Nicole Cascione, edizioni Latitudine 40. Un motivo per restare o tornare. Al via il bando Brains to South, promosso dalla Fondazione con il Sud e rivolto a ricercatori italiani stranieri che svolgono la propria attività all'estero o nella penisola al di fuori delle regioni meridionali. Obiettivo è attrarre giovani eccellenze nei centri di ricerca e nei dipartimenti universitari del meridione. Il bando mette a disposizione 3 milioni e mezzo di euro, scade il 7 ottobre. La novità di quest'anno è che saranno proprio i ricercatori con esperienza nei settori scientifico e tecnologico a proporre progetti di ricerca applicata, indicando una o più istituzioni ospitanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata Fuga dei Talenti. La stringa del mese è contro esodati. Dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di settembre. Annunciato un nuovo bonus fiscale per riattrarre i migliori talenti e cervelli nella penisola. Bastano, secondo voi, gli incentivi di questa natura? È sufficiente ridurre le tasse a chi torna in Italia? O per un reale controesodo serve ben altro? E soprattutto, cosa chiedete voi al governo e al sistema paese? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi giovanitalenti@radio24.it. Scriveteci. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.